Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, benvenuti ancora a Montecitorio e dintorni. Questa settimana è con noi l'onorevole Dario Franceschini del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Allora, entriamo subito nella campagna elettorale. Da stanotte sono vietati i sondaggi, ma gli ultimi dati dicevano che il PDL è in rimonta e a pochi punti dal PD. Siete spaventati? Ma guardi, da che mondo è mondo, quando si avvicina il giorno del voto, il differenziale tra i due competitor si accorcia, da sempre così, non c'è nessuno che vince con 10 punti di vantaggio, quindi è naturale che ci sia una rimonta. In più sappiamo che bene che Berlusconi è totalmente incapace di governare, ma è abile e spregiudicato nelle campagne elettorali. Lui non sta cercando di prendere voti nuovi, sta cercando di recuperare quelli delusi, quelli che diciamo ha fregato con le sue promesse, e li frega un'altra volta facendo altre promesse impossibili da mantenere. Andiamo avanti per una strada di responsabilità, sapendo che quando uno è favorito, dietro di lui c'è la rincorsa. Ma non è che avete sbagliato qualcosa, una campagna elettorale all'inizio troppo lenta? Guardi, Bersani ha scelto giustamente, con la convinzione di tutti noi, una campagna di responsabilità. Le persone ci guardano come quelli che comunque, insomma, attorno ai quali ruoterà il governo del paese nei prossimi anni, che saranno anni difficili per uscire dalla crisi. Non si può prepararsi a un percorso del genere sparando bugie in campagna elettorale. Le campagne elettorali sono l'occasione in cui assumere impegni seri. E certo, se si va da Berlusconi che dice andatevi a prendere l'IMU in posta, a Grillo che dice 1000 euro al mese per ogni disoccupato, che costa una roba tipo 35 miliardi l'anno, è chiaro che insomma si spara sapendo che poi non saranno chiamati a mantenerle quelle promesse. Noi crediamo che si debba seguire una linea di responsabilità anche a costo di perdere un po' di visibilità, perché se uno fa una proposta seria, come ha fatto Bersani ieri, e cioè pagare i debiti delle imprese, quindi fare ripartire un po' l'economia con 10 miliardi all'anno attraverso titoli di Stato, fa poca notizia. Se uno spara un'idiozia, i titoli, ma noi non spareremo idiozia. Quindi lei non crede ai 4 milioni di posti di lavoro promessi da Berlusconi e nemmeno al fatto che ha promesso anche l'amnistia? Dopo 20 anni e 6 campagne elettorali, credere a Berlusconi, penso che ci voglia una specie di sadomasochismo per continuare a crederci. Soprattutto quelli che l'hanno votato in buona fede, che in Italia sono stati tanti dal 94 in poi. Io gli direi, pensateci 10 volte prima di rifidarvi di uno che vi ha fregato continuamente. Ma sull'amnistia lei che cosa ne pensa? Beh, quella probabilmente è l'unica cosa che lui farebbe veramente. Questo è possibile, ma non mi pare che si possa risolvere il problema delle carceri attraverso un'amnistia. Bisogna fare leggi nuove. Senta, poi che chiudiamo il capitolo Berlusconi, che ha detto che invece della Minetti gli italiani preferiscono la Bindi. Lei come la vede? Ma guardi, è il solito modo di offendere, attraverso le offese alla Bindi, offende le donne. Ma anche questa non è una novità, l'ha già detto 50 volte, si è fatto compatire abbastanza, si fa compatire un'altra volta. E Sanremo per lei andava spostato? Fazio ha detto dove? In che località? Esatto, e poi vorrei sapere come fa Berlusconi a sapere cosa succederà a Sanremo, che deve ancora cominciare, forse sa anche chi vince, non lo so, guarda nel futuro. Magari sa anche chi vince le elezioni. Allora andiamo invece proprio al futuro governo. Se voi tante volte vinceste queste elezioni, che cosa succederà? Perché qui abbiamo sentito che Ingroia vorrebbe fare un patto con voi, a costo però che voi non facciate l'alleanza con Mario Monti. Io penso che di fronte agli elettori si deve essere onesti, non ingannare. Ingroia ha detto una cosa che non è in grado di mantenere. Ha detto: dopo le elezioni offriremo al Senato un accordo col PD in modo che non sia costretto a farlo con Monti. Ora, gli italiani non è che possono sapere tutti come funzionano le leggi elettorali. Questa legge elettorale, ma un meccanismo al Senato di questo tipo, per eleggere un senatore in una regione, almeno un senatore, devi superare la soglia dell'8%, se no i tuoi voti sono buttati via. Ora, in tutti i sondaggi Ingroia è data al 2, 3, 4, dove va bene al 5%, quindi non eleggerà nemmeno un senatore, perché la soglia non la raggiunge. E quindi i voti che gli italiani danno a Ingroia, convinti, perché sono convinti di battere Berlusconi, in realtà sono voti che rischiano di far vincere Berlusconi, perché sono sottratti al PD, e nelle regioni si vince prendendo un voto in più, e solo noi abbiamo la possibilità di battere Berlusconi. E quindi ogni voto che magari un moderato da Monti, un arrabbiato da Grillo, una persona di sinistra da Ingroia, rischiano di ottenere l'effetto opposto, vengono tolti a noi, Berlusconi prende un voto in più e vince lui. Ecco, ma non è un po' quello che dice Berlusconi nei confronti dei piccoli partiti, no? Attenzione a non disperdere il voto utile. Ah beh, guardi, dal suo punto di vista ha ragione, qui non è un argomento di polemica politica, è come funziona la legge elettorale. Un elettore di sinistra non vuole votare PD, voti SEL, insomma faccio una scelta di questo tipo, SEL è in coalizione con noi e quindi i voti suoi possono aiutare a vincere. Ma sembra che anche Fausto Bertinotti stia pensando di votare Ingroia. Questo non lo so, è secondo, guardi, le indiscrezioni del Corriere. Non ci credo. Non ci crede? Non ci credo. Stasera che fa? Telefona a Fausto Bertinotti e gli dice, gli dice attenzione. Senta, ma lei quindi dice che Ingroia ha fatto questo appello perché sa di perdere. In sostanza è questa la sua teoria? Ma no, dico che ha offerto una cosa di cui non dispone. Che cosa ne pensa della storia Monte dei Paschi? È vero che tutta questa querelle sul Monte dei Paschi, questo scandalo, vi ha fatto perdere voti perché la fondazione era gestita a livello locale da persone poi del vostro partito? Senta, in campagna elettorale si usa tutto, si strumentalizza tutto da che mondo è mondo. Tutto questo discorso si finirà il 26 di febbraio, quando a quel punto apparirà che la vicenda Monte Paschi è una brutta vicenda come le altre, ma che deve essere oggetto di attività giudiziaria o di controllo. Se ci sono delle responsabilità penali, noi diciamo le individuerà la magistratura e punirà i responsabili. Se ci sono delle responsabilità di gestione, le individueranno gli organi societari o gli organi di vigilanza. La politica non c'entra. Siena è una città così da qualche secolo, è una piccola città con una banca di importanza internazionale o nazionale, in cui anche per ragioni storiche, statutarie, è tutto collegato, comune, fondazione, banca, e quindi diciamo non c'è dubbio che è un sistema che va cambiato e vanno interrotti i rapporti tra politica di tutti i colori e banca, ma trascinarla nella campagna nazionale coinvolgendo il PD nazionale è giusto, perché in campagna elettorale fa comodo tutto. L'ultima domanda: Monti è soddisfatto per l'accordo sul bilancio raggiunto in sede europea? All'Italia vanno 3,8 miliardi in più e dice che l'Italia non è mai andata così bene. Che cosa ne pensa? Che quando si è anche candidati bisognerebbe un po' misurare le parole. Sicuramente dopo gli anni in cui Berlusconi andava privo di ogni forza e credibilità sul piano nei vertici internazionali e cedeva completamente, basti vedere quello che è avvenuto sul fiscal compact rispetto agli interessi nazionali, Monti è andato su quei tavoli con una maggior forza. Gli vorrei ricordare che è la forza che gli abbiamo dato noi in Parlamento, sostenendo le riforme, migliorandole, spiegandole agli italiani. Ringraziamo allora l'onorevole Dario Franceschini del Partito Democratico. Io vi do appuntamento, come al solito, a sabato prossimo. Grazie onorevole. Grazie a voi, arrivederci.